La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24 e come sempre da Oscar Giannino grazie per l'ascolto in diretta in podcast qui alla versione di Oscar e vi dico subito di che cosa parliamo oggi. Parliamo di un fenomeno che in realtà negli anni delle cronache, delle crisi di imprese italiane, delle difficoltà delle imprese italiane, soprattutto in alcuni settori, è ricorrente da tempi lunghi. Naturalmente nei tempi poi della crisi delle aziende, quindi nei momenti più bui dopo il 2011, 2012, 2013, 2014, prima che cominciasse nel 2015 i primi albori della ripresina italiana che si sta consolidando solo adesso nel 2017, dove concluderemo con un più 1,6 probabilmente apprezzabile, è però diventato un fenomeno sempre ricorrente. Di che cosa stiamo parlando? Delle, diciamo così, finte cooperative. Le finte cooperative, cioè la modalità attraverso la quale imprese in difficoltà che magari prima hanno già esternalizzato segmenti della propria produzione, portandole all'esterno per ridurre il perimetro, magari avendo in mente, se i margini che hanno sul mercato sono molto stretti, di riservarsi poi su più, successivi interventi di ottimizzazione del perimetro e delle responsabilità dirette, quindi diventano poi, magari nel progredire delle difficoltà per stare sul mercato di queste imprese, nel desiderio quindi di ulteriore abbattimento dei costi di cui si è direttamente responsabili, all'esternalizzazione segue magari la trasformazione in cooperativa o magari la realizzazione dell'esternalizzazione in cooperativa degli stessi dipendenti fin dall'inizio, per poi procedere a rapporti sempre più difficoltosi e naturalmente con queste cooperative che magari vengono aperte e chiuse anche per aggirare le responsabilità dirette delle aziende. Allora, detta così e raccontata in una maniera tecnicamente non molto appropriata, ma col desiderio di farvi capire di che cosa si tratta, perché qui stiamo parlando di veri e propri artifici che niente hanno a che vedere con la forma cooperativa tutelata dalla Costituzione dell'organizzazione del lavoro, verso la quale poi molto c'è da discutere, perché alcuni sostengono però le agevolazioni fiscali sono eccessive rispetto alla natura tutelata costituzionalmente, però in questo caso non c'entra proprio niente, si tratta di artifici veri e propri e si tratta di artifici che, malgrado negli anni questo sistema si sia riprodotto più e più volte, in realtà una maniera puntuta ed efficace di per impedirla non si è mai trovata. È capitato molte volte anche a me in questi ultimi mesi di occuparmi di cose di questo genere e allora anche il mondo delle cooperative si è fatto vivo e ha detto beh, parliamone sul serio, cioè dedichiamo un'ora a capire esattamente questo fenomeno, cos'è, com'è, che cosa si può fare, perché forse si poteva fare qualcosa qualche anno fa e non lo si è fatto. E infatti partiamo allora da una esattamente di queste vicende. È una vicenda che avviene nel modenese, in un distretto in cui centinaia di imprese lavorano nel settore del distretto delle carni, la provincia di Modena, e riguarda una di esse che è in difficoltà da qualche tempo e che ricorre a una cosa di questo genere. È una vicenda che fin dal 2016 è all'onore delle cronache, ci è tornata nel 2017, poi se ne è occupata la televisione con Ballarò, è andata anche all'attenzione del Parlamento e ha innescato quindi un confronto pubblico, per così dire, riuscendo a rompere ecco questa specie di peso del silenzio che c'è intorno a vicende di questo tipo, che vi garantisco sono molto più frequenti nel tessuto del territorio italiano di quanto non si possa credere. Ed è la vicenda che riguarda la Castelfrigo ed è con noi il segretario della FlaGGL di Modena, Marco Bottura, che questa vicenda la segue da tempo. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, partiamo dal presupposto che chi ci ascolta non ne sa nulla di questa vicenda. Di che si tratta? Riesci a spiegarcene? Sì, funziona in questo modo. Nel distretto agroalimentare modenese ci sono delle imprese che fanno lavorazione carni, sono imprese con una struttura familiare e che hanno storicamente un gruppo di lavoratori dipendenti, quindi lavoratori di solito italiani e che lavorano lì da vario tempo. Nel corso degli anni queste imprese, per abbattere il costo del lavoro, iniziano ad assumere sempre più, non assumere, a fare contratti di appalto con delle società di manodopera. Quindi società che di fatto forniscono lavoratori per fare le lavorazioni all'interno dell'azienda. Quindi nel corso degli anni una società come la Castelfrigo, che prima aveva 20 o 30 lavoratori in appalto, ne arriva ad avere circa 150. Quindi questa è la struttura tipica: dipendenti per lo più italiani e lavoratori in appalto per lo più stranieri, in numero sempre più massiccio. Però questi lavoratori non sono lavoratori in somministrazione nello stesso perimetro, è un perimetro esterno. Allora, il sito produttivo è lo stesso. All'interno del sito produttivo ci sono linee in appalto, quindi lavorazioni in appalto che vengono svolte appunto da queste società di manodopera. Nel caso specifico parliamo di cooperative che noi denunciamo come false cooperative. Queste cooperative di fatto le ha create la stessa azienda? Di fatto queste cooperative fanno capo ad un unico soggetto che ha rapporti commerciali con l'azienda da moltissimo tempo, il quale ogni 2-3 anni apre e chiude queste cooperative. Queste cooperative vengono intestate di fatto ad un prestanome. Il prestanome diventa praticamente il responsabile dei buchi milionari che creano ogni qualche anno. Oggi queste cooperative hanno accumulato un indebitamento pari a 7 milioni di euro, che sono poi i soldi che dovrebbero dare allo Stato attraverso l'IVA, attraverso l'IRAP, attraverso contributi previdenziali, assistenziali. Cioè è un meccanismo attraverso il quale esternalizzati dei costi si diventa irresponsabile per la corresponsione poi di ciò che si deve allo Stato per i contributi e le tasse, è così? È proprio così, quindi se il costo del lavoro del lavoratore dipendente, che è di circa 25 euro, contiene anche tutta questa parte di retribuzione di un certo tipo, di contributi e di tasse, il lavoratore in appalto, essendo in questo meccanismo, alla fine fa costare meno l'appalto, in quanto questi contributi, questi soldi che devono andare all'erario non ci vanno. Per cui il costo dell'appalto si abbassa di un 40% rispetto al lavoratore dipendente. Questo è il grosso risparmio. Noi stimiamo un risparmio di circa 2 milioni di euro e mezzo ogni 100 lavoratori. Quindi se io ho 100 lavoratori in appalto, il risparmio è di questa entità. Ora, i lavoratori che nell'esperienza concreta di cui stiamo parlando, la Castelfrigo, hanno formato gli organici delle due società che procedono con appalti esterni come lei le ha descritte, sono lavoratori aggiuntivi di nazionalità diversa o c'è una dislocazione anche di lavoratori precedenti? No, sono, allora, i lavoratori... Questo lo chiedo perché in passato io mi sono occupato di casi in cui era una ridislocazione di lavoratori precedenti a cui il datore aveva presentato il licenziamento e la riassunzione presso una cooperativa come se fosse una mera formalità, poi non si è trattato di una formalità e naturalmente sono iniziati i guai, ma ecco, in questo caso invece è così oppure no? In questo caso se uno parla con questi lavoratori sente che lavorano nel sito da 5, 10 o 15 anni, sono gli stessi lavoratori nello stesso sito a cui cambiano la società ogni 2-3 anni. Abbiamo prima una new service, poi una new services con la S, poi abbiamo una multiservice, poi abbiamo una work service e così via. Oh, e questi lavoratori nel tempo, di fronte a questi cambiamenti, come si sono comportati? Beh, si ha anche un'evoluzione sociale, stiamo parlando della seconda ondata di immigrazione in queste tipologie di aziende. La prima ondata era quella dell'inizio di tutti gli anni 90, spesso lavoratori italiani che provenivano dal meridione. Qui invece abbiamo un'ondata di immigrazione che viene di lavoratori stranieri, ecco. Nei primi anni i lavoratori stranieri sopportano condizioni contrattuali o retributive anche disagiate, perché rispondono all'esigenza proprio che hanno imminente di trovare il lavoro, di trovare la casa e così via. Però queste condizioni iniziano poi a farsi sempre più pesanti fino a diventare insopportabili. Dopo una decina d'anni qualcuno di questi lavoratori inizia a porre dei problemi, inizia a far controllare le buste, inizia a vedere che non ha i contributi e quindi iniziano i problemi e interviene il sindacato. A novembre, quando poi la cosa ritornò all'attenzione pubblica grazie a quello che avete fatto, i titoli anche del Sole 24 Ore erano a rischio 127 lavoratori. Adesso che siamo praticamente arrivati a Natale, come stanno le cose? Ad oggi abbiamo una procedura di licenziamento che è stata avviata e che si è conclusa in tutte le sue fasi previste dalla legge e quindi i lavoratori potrebbero ricevere a giorni le lettere di licenziamento definitivo per tutti e 127 lavoratori in forza nelle cooperative appaltatrici in Castelfrino. Quindi è imminente l'arrivo di queste lettere di licenziamento. Ma l'impresa, di fronte a queste contestazioni, eccetera, quella originaria per così dire, non le, le scatole cooperative, come, che rapporti ha con chi ha fatto presente in tutto questo tempo le sue osservazioni, come lei se le sta svolgendo qui, ma naturalmente nella forma contestuale di un rapporto diretto con l'impresa? Svicola, elude, si nega, risponde in qualche modo? Ma l'impresa madre, chiamiamola così, committente, la Castelfrigo, ha deciso una linea di politica sindacale di completa chiusura rispetto al problema degli appalti. Quindi dichiara che gli appalti non hanno nulla a che fare. Non la riguardano, è un perimetro di responsabilità esterno. Quindi. Sì, pur essendo nello stesso sito produttivo. Quindi sono due atteggiamenti completamente diversi. Da una parte l'azienda madre che dice non ho nulla a che fare come responsabilità verso questi lavoratori in appalto. E formalmente mi pare abbastanza inattaccabile con gli strumenti attuali, o no? Sì, formalmente è abbastanza inattaccabile, ma ci sono in realtà delle responsabilità che è una responsabilità giuridica, che è quella, la cosiddetta responsabilità in solido, sì, certo. Quindi l'azienda ha ricevuto in seguito alle ispezioni dell'ispettorato del lavoro una richiesta di responsabilità in solido pari a circa 2 milioni di euro per contributi non riconosciuti. Quindi avvenivano dei pagamenti irregolari del lavoro straordinario e quindi Castelfrigo è stata chiamata in solido a rispondere anche di queste situazioni. Quindi responsabilità giuridica, ma anche la responsabilità della scelta dell'appaltatore. Quindi Castelfrigo ha scelto quell'appaltatore che utilizza quel sistema e che evade tasse e contributi in quel modo. Quindi per noi è responsabile perché ha quell'appaltatore da moltissimi anni. Quindi non può chiamarsi fuori. La politica che vi ha detto? Sulla politica noi abbiamo lavorato molto perché ci crediamo, quindi noi non abbiamo sputato sulla politica come fa spesso questa azienda committente o come fanno altre organizzazioni sindacali. Noi abbiamo cercato di ragionare con i lavoratori dicendo questo: siamo in uno Stato democratico che è diverso anche dalle realtà da cui voi siete venuti. In questo Stato democratico noi dobbiamo far funzionare la politica. Quindi siamo andati dal sindaco, siamo andati nei comuni, presso la regione Emilia-Romagna, e abbiamo denunciato tutte queste cose. Abbiamo trovato sostegno, la politica ha riconosciuto che questo sistema è un sistema che è degenerato, la regione Emilia-Romagna si è attivata anche presso la procura per fare tutte le indagini necessarie e quindi la politica ad oggi ci sta dando una risposta, non possiamo dire che è assente. Contestiamo che questa situazione in realtà si protrae da troppi anni, quindi c'è una responsabilità nel corso degli anni. Perché al di là di questo, perché io non vorrei che i nostri ascoltatori equivocassero, noi stiamo partendo da questa vicenda concreta perché è una vicenda concreta per farvi capire come poi funziona davvero. ma non è una vicenda isolata. Ecco. Adesso naturalmente vi sono parti d'Italia in cui questi fenomeni avvengono in altre filiere, in altri settori della produzione. Nel caso di cui mi occupai a Torino erano dipendenti di un esercizio commerciale, a dire la verità, grande, che si era creato e che poi andò in crisi, ma raccontando ai dipendenti delle storie a cui i dipendenti hanno creduto e poi si sono trovati nei guai, perché questa esternalizzazione attraverso finte cooperative pressoché sempre è la forma attraverso la quale si realizzano comportamenti elusivi o di evasione contributiva e tributaria, che poi esitano nell'apertura come nella chiusura. Nella chiusura, dopo che l'apertura è stata presentata come indolore, come se fosse un cambio, diciamo, praticamente formale, non sostanziale del rapporto di lavoro. Quindi questa vicenda è la cosa che mi colpisce, e ancora lo chiedo a Buttura, e poi passiamo al presidente di Legacoop nazionale che ci sta ascoltando, Mauro Lusetti, che poi ci darà a lungo la sua opinione. Ma nella esperienza del segretario della FlaCGL di Modena, siccome è da anni che se uno va a fare ricerche, si occupa di queste cose, vede che sono stati diversi tentativi di affrontare nel tempo questa vicenda delle finte cooperative, raccolte di firme, tutte le diverse sigle del mondo cooperativo che si erano date da fare per una proposta di legge di qua e di là, però alla fine è un po' sempre rimbalzata questa cosa. Nella sua opinione, Bottura, come mai? Beh, è un sistema che porta dei risparmi di milioni di euro alle imprese anno per anno. È un sistema che, se anche le sanzioni sono elevate, le aziende mettono queste sanzioni budget. Quindi è un sistema. Cioè, nel senso che, tradotto per far capire, il costo delle sanzioni, comunque quando poi le si paga, è inferiore al guadagno che si realizza attraverso la forma elusiva, detta proprio fuori dai denti. Ecco. Certo. Inoltre, l'ultima depenalizzazione, in un decreto che ha depenalizzato vari reati. Vari fatti specie di reato, sì. La depenalizzazione del reato di somministrazione fraudolenta di manodopera. Quindi è un sistema che si sta reggendo e sta spazzando via le aziende buone e il buon lavoro. Quindi si sta radicando e si sta espandendo per questi interessi. Ma per capirci, nella vostra esperienza, in questo caso, ma non solo in questo, l'azienda madre ha realizzato questa forma organizzativa particolare e reiterata nel tempo perché stava stretta sui margini e non avrebbe retto? Cosa che, conoscendo come funzionano le aziende e il tipo di mercato negli stretti della carne di Modena, può essere pure, ma uno lì non crederebbe neanche nei momenti di crisi, oppure è semplicemente per realizzare un aumento del margine e basta? Beh, ogni azienda potrebbe ragionare, rivendicare in questo modo dei comportamenti non corretti. Qui stiamo parlando però di illegalità. E su questo, secondo noi, non bisogna scherzare, perché questi comportamenti creano un terreno fertile per la illegalità, una cultura malavitosa, e quindi attirano anche fenomeni di criminalità organizzata. Ma poi, a parte il fatto che sono emulativi, perché, scusate, è un meccanismo di alterazione della concorrenza, io lo dico perché, cari ascoltatori, non è che nel frattempo cambio idea e oggi non sono per la concorrenza. Il problema è che se io sono concorrente e non mi passa neanche per la telecamera del cervello di realizzare finte cooperative per abbattere i miei oneri e innalzare il mio margine, beh, capite che uno che fa così e me lo ritrovo come diretto concorrente, non magari faccio le stesse cose, non stesso distretto e così via, delle due l'una: o dico maledizione, non è possibile, mi stai colpendo sotto le linee della cintura e non è consentito, con un gioco fair, con un gioco equo, oppure faccio come lui, perché questo poi è il problema. Il meccanismo emulativo inevitabilmente si allarga. Sta succedendo proprio questo. Ecco, ma infatti immagino, e ripeto, stiamo parlando in un'area del paese che abitualmente, pur senza concepire eccezioni assolute nel nostro paese, ma noi non siamo abituati a considerare la provincia di Modena come un'area di illegalità diffusa, e non ne faccio una questione antropologica, lo dico per deriva culturale, per cultura anche delle relazioni industriali, per presenza del sindacato, per presenza anche di un tipo di impresa socialmente responsabile. Però ecco, cari ascoltatori, io do atto, ma che fine faranno questi qua? Non c'è il modo proprio di evitarla, il licenziamento, no? Allora, questi lavoratori, da come si stanno mettendo le cose, saranno espulsi da questo sito produttivo. Noi contestiamo che sono espulsi proprio perché hanno alzato la testa,

la versione di Oscar. Eccoci tornati qui, grazie per l'ascolto sempre, caro ascoltatore di Radio 24. La versione di Oscar, abbiamo messo a fuoco un esempio significativo di un fenomeno che non è solo quello della vicenda della Castelfrigo, nel modenese distretto della carne, però il fenomeno di esternalizzazione per abbattere i costi attraverso cooperative finte, che servono solo a una cosa, attraverso dei prestanomi, a non pagare contributi, a non pagare le tasse, dopodiché si chiude come si apre, i lavoratori vanno fuori, ma intanto diventa una delle modalità per affrontare la crisi, sì, anche, però anche per abbattere in maniera illegale i margini. Però sono cooperative, com'è possibile che le cooperative nel nostro paese vengano utilizzate a questo fine? Abbiamo prima sentito la storia dal di dentro del problema dell'azienda, dei lavoratori e cosa succederà ai lavoratori esternalizzati dalla Castelfrigo, con Marco Buttura, segretario della FLAI CGIL di Modena. Ma adesso abbiamo con noi, per resto della trasmissione, il presidente della Lega Coop Nazionale, Mauro Lusetti, che ringrazio per il tempo che ci regala mettendosi a disposizione. Grazie presidente. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, appunto, io dicevo, se uno segue bene le visioni del mondo del lavoro, capisce che questa forma illegale va avanti da anni e anni, presidente. Ma com'è che in anni e anni non si è trovato un modo? Il punto di partenza credo che sia la forma societaria. Allora, la forma societaria cooperativa è una forma societaria molto semplice, quindi può essere costituita in maniera molto semplice, ha dei meccanismi di controllo e di governo che sono fondamentalmente legati al fatto che è una società di persone e quindi viene utilizzata oggi per chi vuole delinquere, per chi vuole commettere reati. Lo dico questo perché la forma cooperativa ovviamente non è di esclusiva di nessuno, chiunque può fare una cooperativa. Per quello che riguarda le tre principali organizzazioni di questo paese che si riconoscono nell'alleanza delle cooperative, Lega Coop, Conf Cooperative e AGC, noi rappresentiamo il 90% in termini di soci, di volume d'affari, ma dal punto di vista del numero delle società siamo un terzo rispetto alle cooperative esistenti in questo paese. E questo è un primo elemento da tenere presente, perché credo che la logica del distinguere per non confondere sia quella che ci aiuterà e ci aiuta a combattere fenomeni di illegalità come questo. Noi siamo partiti nel 2015 ad affrontare questo argomento, quindi ben prima di questi casi che sono diventati emblematici, ma che sono il sintomo di un fenomeno che si sta aggravando. È un frutto amaro della crisi questo. Negli ultimi 3 anni si sono accentuate le vicende che hanno visto false cooperative coinvolte in questa questione. Tenga presente che il danno per lo Stato è enorme, perché parliamo di stime ovviamente, quindi non di dati certi, essendo fenomeni criminosi, ma di oltre 750 milioni di euro di evasione di tipo contributivo e di un numero impressionante di persone. Si parla di oltre 100-120 mila lavoratori che sono coinvolti in queste false cooperative. Noi abbiamo deciso nel 2015 di uscire anche dal punto di vista politico con una battaglia forte. Abbiamo raccolto oltre 100.000 firme, sì. Nel paese di oggi raccogliere 100.000 non firme non è proprio facile, sì. non è facilissimo. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo depositato un testo al Senato che è ancora fermo. Purtroppo in questa legislatura non se ne parlerà, quindi bisognerà pensare alla prossima. No, ma però cosa propone? Questo testo propone di colpire due o tre elementi che renderanno più complesso e più complicato, e poi ci tornerò su questa questione, l'uso della forma cooperativa. Il primo è che ogni cooperativa che non si sottopone a revisione viene cancellata dall'albo delle cooperative, quindi non ha più ragione di chiamarsi cooperativa e viene sottoposta a una serie di ulteriori controlli. Il secondo è quello che tenga presente che c'è un fenomeno che abbiamo rilevato da una ricerca specifica che abbiamo fatto proprio sulla provincia di Modena. Io peraltro incidentalmente sono modenese. Modenese, esatto. Sì. come il suo ospite della CGL, come Bottura, c'è il tema dell'amministratore unico. Noi chiediamo che una modifica del codice civile che impedisca la presenza dell'amministratore unico nelle società cooperative, perché per sua definizione la cooperativa è una società collettiva di persone, quindi non c'è un amministratore unico, ci deve essere un organo di governo che rappresenti la base sociale, se vogliamo pensare che quella cooperativa abbia una vera vita da cooperativa sul piano democratico che coinvolga i soci. In quella ricerca noi abbiamo registrato che metà delle cooperative che abbiamo analizzato avevano l'amministratore unico e nel 90% dei casi era un lavoratore straniero e quindi evidentemente un prestanome. Quindi noi vogliamo colpire questi due fatti, rendere più rapidi e veloci i controlli dell'Agenzia delle Entrate in caso di cessazione dell'attività, perché questo aumenterà la difficoltà nell'uso della forma societaria per delinquere nei modi che abbiamo sentito. Ma attualmente, perché Presidente, mi metto sempre nei panni di chi ascolta, che non è un esperto di regime di ispezioni o di forme di adempimenti per la Costituzione e di regimi di controlli a cui sono sottoposti le cooperative, no, quindi le chiedo di capire che bisogna partire un po' da quando si costituisce una cooperativa e se ne dà formalmente se ne informa chi se ne deve informare per l'iscrizione all'albo delle cooperative. Attualmente il regime di controlli che partono una volta visto che per esempio c'è un amministratore unico straniero eccetera eccetera, in questi anni non ha subito nessun cambiamento? Non si potrebbe partire proprio da lì, dalle notifiche certo. iniziali? Certo, guardi, ci sono due dati e poi voglio essere molto preciso. Le cooperative che aderiscono alle nostre tre centrali che costituiscono l'Alleanza delle Cooperative sono sottoposte a revisione annuale o biennale in ragione della loro dimensione regolarmente per il 95% di esse. L'altro 5% sono perché sono in una qualche forma di procedura o perché sono inattive e quindi non sottoposte alla revisione. Nel resto delle cooperative che non aderiscono alle centrali e che quindi dipendono per la revisione dagli organi ministeriali, la entità, la quantità di revisioni effettuate è molto molto bassa, non per una colpa delle funzionari ministeriali, ma per il fatto che le risorse necessarie per poter fare le revisioni e quindi avviare controlli, avviare procedure, nel tempo si sono ridotte. C'è una tendenza in atto dal 2016 che sta recuperando questa quando situazione. Lei parla di risorse intende proprio le risorse a disposizione del soldi. Ministero dei soldi. Ah ecco, punto, soldi. Cioè, soldi. Soldi. Soldi perché occorrono per mettere in piedi le attività di revisione, occorrono per pagare i revisori, occorrono per effettuare tutte le attività di tipo ispettivo e quindi fino al 2015 c'era stato un calo incredibile, oggi c'è un'inversione di tendenza, il numero sta crescendo, noi dobbiamo accentuare e accelerare, quelli sono soldi spesi bene perché c'è dietro non solo un elemento fortissimo di evasione, oltre 750 milioni, ma ci sono i diritti di decine di migliaia di persone che vengono calpestate e usate come schiavi. Le false cooperative sono un tumore, noi non usiamo mezzi termini da questo punto di vista, perché non vogliamo essere né confusi, ma soprattutto vogliamo fare una battaglia di civiltà. No, poi ripeto, ce lo metto nella lista, è anche una maniera odiosa, impropria, illecita e vigliacca di aggirare la concorrenza, perché se uno con i dipendenti li tratta in regola eccetera eccetera e dall'altra parte c'è uno che dice beh io riesco a ottenere lo stesso risultato e prendere i lavori come i tuoi però con milioni di risparmio, dico beh complimenti. Cioè. Le aggiungo anche un carico da 90 da questo punto di vista, perché è talmente odiosa questa pratica, è talmente contro le fondamentali regole di un mercato che funzioni in maniera democratica e trasparente, che è dietro le false cooperative. C'è un altro tema enorme che in parte Bottura ha affrontato parlando della società Castelfilgo. Questa battaglia non la si vince solo aumentando le difficoltà nell'uso di uno strumento societario, perché chi vuole delinquere domani utilizzerà un'altra forma societaria, un'altra modalità. Noi abbiamo l'assoluta necessità di coinvolgere in questa battaglia di civiltà anche la committenza, che non può voltarsi dall'altra parte, che non può voltarsi, e nella committenza ci metto anche quegli enti che continuano a fare appalti pubblici al massimo ribasso. Ma qui io adesso la fermo, perché noi abbiamo un'ultima pausa, quella sull'informazione stradale, e poi dedichiamo tutta la parte finale esattamente a questo, perché non solo a questo, ma ripartiamo di qua, perché questo è uno delle forme che negli anni abbiamo visto riprodursi con impatti economici per ammontare e per segmenti di gare appaltate incredibili, devo dire con reazioni quasi nulle, tranne poi quando naturalmente scoppiano le indagini delle procure, ma scoppiano non per questo, scoppiano di solito per altre ragioni, per meccanismi di aggiramento esplicito o di collusione poi nella partecipazione, nella definizione poi di chi ha vinto le gare. Però questo è un fenomeno che è diventato clamoroso, stiamo parlando anche di finte cooperative di professionisti per abbattere segmenti dei costi necessari per realizzare i progetti delle gare. Ne conosco personalmente alcuni. Torniamo tra un minuto sempre con il presidente Lusetti di Lega Coop Nazionale. La versione di Oscar. Ora eccoci tornati qui, stiamo parlando delle finte cooperative, siamo partiti dal caso della Castelfrigo, ma ce ne sono tanti altri: esternalizzazione dei lavoratori, regime apparentemente di appalto per la realizzazione dei lavori esterni al perimetro, con società che sono in forma cooperativa, attraverso le quali si eludono i contributi, le tasse, vengono poi chiuse in capo prestanomi alla Castelfrigo, però gli immigrati dipendenti hanno alzato la testa, il sindacato se ne occupa, sono occupato la politica, le centrali cooperative da anni denunciano, hanno raccolto decine e decine di migliaia di firme per una legge che dice che bisogna dare un giro di vite sui controlli ispettivi e sul regime di revisione, e siamo arrivati con il presidente Lusetti a dire guardate che questa roba è diventata anche non casualmente ma sempre più statisticamente presente anche all'interno delle grandi gare d'appalto pubblico, perché è diventata una delle modalità attraverso cui era possibile confezionare delle proposte in vista del massimo ribasso. Eppure anche lì grandi reazioni non si sono viste, presidente Lusetti. No, c'è una grande reazione, c'è stata, perché il nuovo codice degli appalti prescrive una serie di norme che tendono a evitare le gare al massimo ribasso, e quindi impongono l'utilizzo dei contratti di miglior favore, e quindi una serie di altre norme che almeno sul piano formale mettono nelle condizioni le stazioni appaltanti di non attivare delle gare al massimo ribasso. Dopodiché, fatta una legge, e in quel caso il codice degli appalti è un codice, cioè prescrive delle attività importanti che vanno in questo segno, si trova l'inganno e ti ritrovi nelle clausole accessorie, per esempio in tanti bandi, una clausola di miglior favore che presuppone il regalo di giornate di lavoro, e allora quello che è uscito dalla porta ti rientra dalla finestra, perché mi costringi, se voglio vincere l'appalto, a dirti che ti do 5 giornate di mese gratuite. Esatto. E quindi esatto, era esattamente uno dei meccanismi dei professionisti miei amici che ci sono ritrovati in mezzo, e quando me l'hanno fatto leggere ho detto hai capito, non si finisce mai di imparare come si può tentare di agire. Allora io allora qui posso dire solo una cosa, anche questa questione noi non è che ci limitiamo a denunciarla, la vogliamo combattere, abbiamo dato vita ad una azione importante anche dal punto di vista scientifico di denuncia, perché abbiamo costituito un osservatorio a livello nazionale insieme all'Università di Trento e all'Università di Milano, e analizzeremo tutte le gare di bando che vengono emesse e denunceremo quegli enti che non rispettano in maniera puntuale e precisa le prescrizioni del nuovo codice degli appalti, perché questo è un paese che può cambiare, che deve cambiare, però non possiamo su queste situazioni qui accettare la logica di dire: visto che non posso cambiare mi adeguo, e quindi una omologazione a ribasso sui diritti delle persone, delle imprese. Presidente, lei accetta un secondo, io gli spiego in un minuto quello che se fossi un vostro consulente, ma non lo sono, sono un giornalista, vi proporrei. No, le spiego perché. Perché i miei ascoltatori, gli ascoltatori della 24, hanno sentito anche che noi ci siamo occupati di indagini che riguardano uno degli aspetti per cui il meccanismo delle gare pubbliche evidentemente ha funzionato tradendo le aspettative. Sto parlando delle grandi gare pubbliche, del potenziale acquirente unico del procurement pubblico, di quote crescenti delle forniture, degli input intermedi della pubblica amministrazione, cioè Consip, che hanno finito per interessare la magistratura e, come sa, se ne è occupato l'ANAC, ci sono importantissime cooperative di mezzo, stiamo parlando di grandi lotti per miliardi. Innanzitutto, per partecipare a queste gare di ammontare così elevato bisogna avere delle caratteristiche tale per cui ci finiscono per partecipare grandi imprese, ma anche grandi cooperative che sono più o meno nei diversi settori dell'offerta dei servizi, per esempio di pulizia o di gestione di immobili, più o meno sempre gli stessi. Secondo, non è troppo difficile, e su questo indagano i magistrati, spartirsi le diverse aree in cui sono organizzate complessivamente le gare e così via. Io sono convinto di questo. In questo processo di revisione dei criteri, in cui Consip è stata costretta adesso a entrare, se ne occuperà la prossima legislatura, vedremo, perché non va bene, e questo rischia di essere un passo indietro nell'ottimizzazione anche delle condizioni finanziarie di chiusura del prezzo finale, poi dell'acquisizione di questi beni e servizi della pubblica amministrazione. Da una parte ci sono i fenomeni che lei ha appena descritto e che sono illegali e contro cui bisogna combattere. Dall'altra parte bisogna combattere anche quegli altri fenomeni di alterazione della gara. Quindi, se io fossi consulente, direi: perché non unite tutti e due gli impegni e ammettete che anche in un pezzo importante del vostro mondo qualche prassi interpretativa delle grandi gare pubbliche va rivista, Presidente Lusetti? O sbaglio, secondo lei? No, allora io mi deve concedere 30 secondi. Ma per no, partire di più, prego. Da lontano e arrivo immediatamente alla sua. 3 anni fa noi, si ricorderà, eravamo in un angolo perché eravamo travolti da delle inchieste, Mafia Capitale per un verso, CPL di Concordia per un altro. Oggi facciamo i conti con le sentenze, non con le inchieste. E sa cosa ci dicono le sentenze? Allora, primo, c'è un pezzo di questo mondo che si è omologato e ha commesso reati. Noi non abbiamo pietà per nessuno. Queste persone vanno espulse, sono fuori dalla nostra logica. Quelle cooperative che sono state coinvolte, noi le abbiamo accompagnate in un percorso di totale ricambio dei gruppi dirigenti e dei consigli di amministrazione, quindi abbiamo alzato di molto il livello dell'asticella del tema della legalità. Quelle inchieste però ci consegnano anche delle altre cose, e cioè dei gruppi dirigenti che sono stati assolti per non aver commesso il fatto. E questa cosa per me è qualche cosa di estremamente doloroso, perché da una parte all'epoca noi facemmo la scelta di salvare le cooperative e di sostenere quello che mi pare essere assolutamente corretto, che è quella che la responsabilità è personale. Eravamo invitati a cacciare fuori le cooperative, noi abbiamo fatto una scelta diversa, forse mediaticamente meno impegnativa, meno efficace, ma dal punto di vista concreto oggi io ho a che fare con 2 o 3 cooperative che assommano più di 2.000 persone, che sono salve, che competono sul mercato, e ho da gestire e governare il recupero della credibilità e dell'onorabilità di alcuni dirigenti che erano stati messi alla gogna. Quindi la cosa è complessa, ha queste caratteristiche. Lei mi insegna che sia il codice degli appalti che il nuovo codice antimafia ha abbassato di parecchio il livello degli elementi probatori per assumere delle degli interventi sulle imprese, quindi noi abbiamo l'assoluta necessità su questo versante, mi creda, di recuperare una dimensione che ci consenta di capire, di dare il tempo di fare le indagini, di assumere dei provvedimenti nel momento in cui c'è un elemento probatorio di un certo tipo. Noi non vogliamo finire i processi, chi ha patteggiato è fuori. No, ma io questo glielo dico perché sono molto convinto di quello che, cioè, per essere chiari, nel nostro pubblico Radio Confindustria e così via, lei lo sa perché ci fa i conti con quando c'è cresciuto, entra nel movimento cooperativo, conosce il mondo. Molte imprese dicono: ah, questi signori sono concorrenti, ma hanno per la loro forma giuridica particolare dei vantaggi costitutivi che non, se potessi vederle diminuire sarei contento. Lo sa, no? Cioè, è una reazione. Allora, disponibile a misurare. Ma si figuri, no, ma non sto dicendo quello. Sto dicendo che di fronte a questo dato di partenza, per voi c'è un obbligo aggiuntivo di trasparenza. Quindi quando lei dice sì, però poi c'è una giustizia mediatica, è ovvio, ha ragione, e con me sfondo la porta aperta perché sono un liberale garantista. Però il problema è che per voi è come se ci fosse la necessità di raddoppiare l'asticella rispetto a quella del regime di garanzie di interventi previsti dall'ordinamento, perché dovete comunque fronteggiare l'idea: ma quelli pagano meno, ma quelli sono avvantaggiati, eccetera eccetera. Io lo dico solo a fine della trasmissione perché in realtà, come avete visto, ci siamo occupati di un fenomeno degenerativo della struttura delle imprese non cooperative che utilizzano la forma cooperativa per eludere tasse, contributi e fare furbi, e questa roba non va. Abbiamo visto che questo fenomeno è diventato un meccanismo che si vede anche nel meccanismo delle gare pubbliche per abbattere i costi e presentare le proposte finali con l'abbattimento maggiore e vincere, e non va, e anche questa è una furbata delle imprese non cooperative. Dopodiché non abbiamo neanche taciuto, perché il mio compito è che cooperative per prime ci hanno avuto delle indagini e così via, e la mia opinione, però sono felice del fatto che il Presidente oggi sia reso disponibile, e quindi è solo la prima di tante altre volte, il Presidente della Lega Coop Nazionale, perché grazie a lui abbiamo unito il fatto che la legalità si costruisce insieme, di qua o di là, senza far finta di non vedere. Però certo, i creditori privati che fanno i furbi così poi perdono il diritto di dire che c'è gente che paga meno di loro, perché loro pagano meno di tutti, perché sono entrati nell'illegalità, cari ascoltatori. Ecco, cerchiamo di non vedere chi fa il furbo contro legge da tutte le parti dove sta. Grazie davvero al Presidente Lusetti, alla prossima, continuate su Radio 24.